Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Shanghai, Cina, Expo 2010. Il padiglione Italia, che accoglie più di 40.000 persone al giorno, disposte ad attendere in fila fino a 6 ore, svetta in testa alla classifica dei migliori padiglioni redatta dal Financial Times, perché è una sintesi perfetta della capacità italiana di coniugare il saper vivere, la gestione degli spazi di aggregazione sociale e l'innovazione. 7.800 metri quadrati di area espositiva per la città del futuro, che, come recita in 36 lingue la grande installazione posta all'ingresso, è un vero e proprio viaggio attraverso la cultura del nostro paese. Il grande portale Marco Polo, una scultura in bronzo alta 12 metri di Arnaldo Pomodoro, dedicata al mito del grande mercante veneziano e allo scambio, sempre più intenso nei secoli, fra le civiltà cinesi e italiana, introduce i visitatori in una struttura da record, costruita interamente con materiali provenienti dall'Italia, dove svettano opere dal grande impatto scenografico, come il Teatro del Palladio, la cupola del Brunelleschi e un mosaico alto 18 metri che riproduce un famoso quadro di Giorgio De Chirico del 1914, L'enigma di una giornata. A rappresentare il paesaggio è la sala del food, sospeso sul soffitto, un campo di grano composto di 80.000 spighe di grano e 20.000 papaveri, con al centro un ulivo artificiale realizzato da artigiani italiani. Oltre alle 265 nuove invenzioni selezionate per l'occasione, tra cui il robot spazzino, il prato verticale e l'aquilone energetico, uno spazio speciale è riservato alle 10 invenzioni italiane che hanno cambiato il mondo. Innovazione tecnologica, funzionalità e bellezza sono le parole chiave per descrivere una di queste invenzioni che è entrata nelle case di tutti, la mitica Moka. Io per esempio, professore, a tutto rinunzierei, tranne a questa tazzina di caffè presa tranquillamente fuori al balcone dopo quella mezz'oretta di sonno che uno si è fatto dopo pranzo, sapete? Quel poco di sentimenti... Scusate. E me la devo preparare io stesso, con le mie mani. Sono gelosissimo. Eccolo. Mia moglie, no. Mia moglie non collabora. Sapete, è molto più giovane di me e la nuova generazione ha perduto queste abitudini che secondo me, poi sotto un certo punto di vista, sono la poesia della vita. Oltre a farvi occupare il tempo, vi danno pure una certa serenità di spirito. A Tazzulella e Caffè è un piacere di cui Edoardo De Filippo non potrebbe fare a meno. A Napoli il caffè casalingo non è semplicemente una bevanda, ma un vero e proprio rito e come tale non va improvvisato. Le regole sono precise e cominciano con l'uso della cucumella, la caffettiera napoletana, caratterizzata dal beccuccio all'ingiù e che va girata non appena si sente che l'acqua sta bollendo. Il caffè, che oggi si acquista soprattutto al supermercato, una volta veniva comprato in grani in una torrefazione, un locale intriso di aroma, con sacchi di juta ovunque a contenere i chicchi e palette pronte a raccogliere delle grandi manciate. I chicchi venivano poi messi nel macina caffè ed era un grande divertimento per i bambini girare la manovella. Un galantuomo che tiene sei figli ha chiesto una casa e ci danno consigli, mentre assessore che Dio lo perdoni, prende le roulotte ci alleva i visoni. Poi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce, con rispetto se fatto le tre, volita spremuta, ho volito caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa, caricetta cacciccire nella compagna di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa, con ricetta di ciccirine la compagna di cella precisa mamma. Non è facile stabilire l'origine del caffè, né del nome, né della bevanda stessa. Per alcuni deriva da Kaffa, un altopiano etiope dove il caffè cresceva in abbondanza, ma che secondo altri ha ricevuto questo nome quando già la coltivazione della pianta si era diffusa in molte altre zone. La tesi più accreditata associa il termine caffè al turco kaveh, a sua volta derivato dall'arabo kava, che indicava una bevanda eccitante o il vino. L'Italia, però, ha una tradizione del caffè tutta sua, che porta spesso a lamentarsi se altrove non lo si trova altrettanto buono. E la storia dell'espresso è strettamente legata a quella delle macchine per produrlo. Siamo nel lontano 1884, quando a Torino il signor Moriondo inventa e brevetta la prima macchina, modello cilindrico a colonna per fare il caffè con acqua e vapore. Nel 1901 la macchina viene perfezionata dal signor Luigi Bezzera, tecnico meccanico che studia minuziosamente i dettagli e riesce ad apportare una serie di migliorie al brevetto già esistente. 4 anni dopo, quel brevetto viene comprato dalla ditta Pavoni di Milano, che comincia a produrre in serie. Finché nel 1933 Alfonso Bialetti, che ha fondato l'omonima azienda 15 anni prima, mette sul mercato la Moka Express, una caffettiera rivoluzionaria che permette di preparare a casa in tempi brevi un ottimo caffè. Ma se tutti noi abbiamo la Moka a portata di mano nell'antina della cucina, lo dobbiamo a suo figlio, che è il vero artefice del successo familiare. È il nostro primo protagonista di oggi e il suo nome è Renato Bialetti. Renato Bialetti. La storia della nostra famiglia è da sempre legata al caffè. Io mi sono inventato il modo per farlo in casa nel migliore dei modi. Ma è merito di mio figlio Renato se tutti gli italiani hanno scoperto il piacere della Moka. Il momento in cui quella della famiglia Bialetti diventa una storia non più solo privata, ma italiana, bisogna farlo risalire al 1918, quando Alfonso rientra dalla Francia dopo aver lavorato nell'industria della lavorazione dell'alluminio. Siamo a Crusinallo, la più grande frazione di Omegna, una bella cittadina sul lago d'Orta, Piemonte. Alfonso, durante la sua esperienza oltralpe, ha imparato la fusione a conchiglia, che permette fusioni molto precise a costi contenuti. Decide così di mettere a frutto le sue abilità imprenditoriali e tecniche aprendo una piccola ditta tutta sua, il primo germoglio di quella che diventerà una grande azienda. Curioso e appassionato, passa le sue giornate a osservare ciò che lo circonda e trae ispirazione da qualsiasi cosa. Per tutto il corso degli anni 20, Alfonso Bialetti si intrattiene con sua moglie e le altre donne di Crusinallo e le guarda mentre lavano i panni in una caldaia sigillata con un piccolo tubo centrale dotato di foro sulla parte superiore. La lisciveuse è in qualche modo l'antenata di una semplice lavatrice che funziona in questo modo. Il tubo elabora l'acqua insaponata dalla parte inferiore della caldaia e la ridistribuisce affinché arrivi ai vestiti. Qualcosa in questa invenzione lo attira sempre di più, finché Alfonso ha l'illuminazione. Ho capito che quel meccanismo con il tubo centrale e l'acqua poteva essere rielaborato ed essere usato anche in altri contesti. Si trattava soltanto di capire come. Renato Bialetti nasce nel 1922 e l'emozione di mamma e papà è enorme. È ancora piccolo quando Alfonso lo porta con sé in ditta la prima volta e sia gli operai che la gente del paese lo riempiono di complimenti. Renato sorride a tutti, è un bambino socievole e simpatico. Si intravede in lui già lo spirito da compagnone che da grande non gli farà mai disdegnare una cena innaffiata da buon vino. Con papà Alfonso, poi, il rapporto è davvero speciale. Renato mi raggiungeva dopo la scuola, gli piaceva moltissimo vedere cosa facevo e imparava anche in fretta. Credo che gli sia sempre piaciuto di più stare con me in ditta piuttosto che andare a scuola. Se i prototipi di caffettiera vengono realizzati in alluminio, la motivazione, oltre che tecnica, è di natura politica. Il regime di Mussolini ha deciso per l'autarchia e siccome l'Italia è ricca di bauxite, un minerale metallifero che serve proprio per l'alluminio, l'alluminio si è trasformato nel metallo nazionale. Durante le sperimentazioni, i problemi sembrano spuntare come funghi. Ogni giorno compare un ostacolo che sembra insormontabile. Le prove durano mesi. Qualche volta Alfonso non torna nemmeno a casa di notte dalla fabbrica, pur di riuscire a portare a termine la sfida che si è messo in testa. Ma grazie alla tenacia di Alfonso e alla determinazione del piccolo Renato, che già lo supporta come un socio, finalmente nel 1933 viene alla luce lei, la Moka per il caffè. Si tratta di un oggetto non solo funzionale, ma anche bello. Il disegno distintivo e la forma ottagonale si ispirano a un servizio da caffè d'argento molto popolare nelle abitazioni dei ricchi. Quella che per la famiglia è una grande gioia, presto sarà una gioia altrettanto grande per tutti gli italiani. Invece era una mare. della città. Prima che Alfonso Bialetti inventasse la moca, c'era la napoletana, che ancora oggi per tradizione viene usata in molte case partenopee. La napoletana ha il corpo diviso in due parti, come la moca, ma ha una fondamentale differenza di funzionamento. Viene ribaltata e l'acqua bollente scivola lentamente attraverso il caffè, deponendo il liquido nel serbatoio, mentre la moca invece usa il vapore che spinge l'acqua velocemente nel filtro per estrarre una bevanda meno forte, ma più profumata. Come sia venuto in mente a Bialetti un nome così facile e maestroso per chiamare la sua invenzione è presto detto. Mocha è una città dello Yemen che appartiene a una delle prime e più rinomate zone di produzione di caffè, in particolare della pregiata qualità arabica. Uomo pragmatico più che colto, geniale nel suo pensare all'uso popolare e quotidiano della sua macchinetta, Alfonso non si preoccupa certo delle citazioni colte, una volta che ha trovato un termine semplice che sembra italiano e che tutti possono ricordare. Eppure troviamo la parola moca sia nell'avventuroso Il giro del mondo in 80 giorni che in Candido, il capolavoro di Voltaire, quando il protagonista, in viaggio nell'allora impero ottomano, viene ricevuto da un ospite che, tra le altre cose, gli offre una bevanda preparata con caffè di moca puro, non mescolato con il cattivo caffè di Batavia e delle Antille. Renato Bialetti, diverso in molte cose, ma accomunato a suo padre Alfonso per temperamento, impara da lui come essere convincente quando si tratta di vendere i propri prodotti. Seguendolo in giro per i negozi, vedendolo parlare di persona con i titolari, capisce che il rapporto umano è fondamentale, anche quando si tratta di affari. E nel 1945 si prepara a entrare nell'azienda di famiglia assistendo a un episodio. Novara, Corso Garibaldi. Nel negozio di caffettiere elettriche del signor Pietro Amadori non arriva nessuno. Ecco perché, mentre la commessa spolvera qua e là, lui si è ritirato nel retro per cercare di far quadrare i conti. La guerra è appena finita, l'economia è in ripresa, ma c'è da reinventare tutto, servono idee nuove. Si sente il campanello della porta ed entra Alfonso Bialetti, che senza presentarsi si guarda intorno quasi scandalizzato. Invitato dal sempre gentile signor Amadori a seguirlo nel suo ufficio, dà sfogo ai suoi pensieri. Le sue caffettiere sono elettriche, ma sono sorpassate. È questione di forma. E poi anche l'elettricità applicata alle caffettiere casalinghe è un'opinione. La napoletana è sempre stata la regina del caffè fatto in casa, solo che anche lei deve cambiare forma, adeguarsi al tono, all'estetica delle case moderne e di quelle ancora più moderne che verranno dalla ricostruzione. L'unico merito della guerra è di aggiornare e rinnovare quello che fu distrutto. Io fabbrico le caffettiere che ci vogliono. Sicurezza, ottimismo, determinazione ed entusiasmo. Ecco la lezione che Renato impara da suo padre Alfonso. Due anni dopo, nel 1947, è già in azienda, ha solo 25 anni, ma è in gamba, sveglio, e gli viene affidata la gestione dell'intero Piemonte. Il prodotto che vende gli garantisce fin dall'inizio una qualità eccellente. Il raccoglitore del caffè ha una forma ottagonale, costruita in alluminio lucido e resistente, decorata con un manico e un pomolo, entrambi robusti ed ergonomici. Proprio per non scendere di livello, non si risparmia né sulla guarnizione né sul filtro a imbuto, che vengono realizzati solo con materiali che possano garantire una durata nel tempo. Renato Bialetti si mette al lavoro e con l'aiuto del signor Pietro Amadori, diventato rappresentante, ha già i primi frutti. Le richieste e le vendite sono sempre più capillari e la moca entra negli ordini dei grossisti. Uno di questi, che comincia con 20 caffettiere di prova, arriva a ordinarne 10.300 in 15 giorni. All'inizio l'area di riferimento è soltanto il Piemonte, ma presto i confini si allargano, fino a spingersi oltre il territorio italiano. Tra il 54 e il 55, sotto la guida di Renato, le richieste superano di 10 volte la produzione. Nel frattempo, per stare dietro agli ordini, cresce anche la ditta. La piccola e poco pretenziosa officina di Crusinallo diventa una grande fabbrica, tra le più moderne d'Europa. Per soddisfare prima tutte le regioni italiane e poi tutto il mondo, vengono assunti decine di rappresentanti pronti a macinare chilometri, prima ancora che chicchi di caffè. Il signor Amadori, uno dei primi, un giorno guarda negli occhi Renato e gli dice una frase che riempie il giovane Bialetti di orgoglio. Quando le prime astronavi raggiungeranno la Luna, ti chiederò la rappresentanza interplanetaria della Moca Express. Discuteremo un po' sulla provvigione, ma alla fine ci metteremo d'accordo. Renato Bialetti, grandi baffi che gli coprono la bocca e volante sempre in mano per sfrecciare per le strade di paese, è un tipo eccentrico e illuminato che capisce in fretta quanto conti il marketing per far funzionare un'azienda. Siamo in un periodo molto naif rispetto alla pubblicità. È ancora un mondo dove l'immagine conta, ma di certo non come nella contemporaneità. Eppure lui intuisce prima degli altri che la qualità di un prodotto non basta per fare colpo sui clienti. Bisogna avvicinarli in altro modo, stimolando la loro fantasia, affascinandoli con trovate divertenti. Cinema, riviste, cartelloni stradali. Ogni strumento può essere importante per la promozione aziendale. Quello che Renato non può immaginare è di diventare lui stesso un'icona famosa nel mondo. Tra poco, a Destini Incrociati. Successo è solo accaduto, è un participio passato, come una sfera d'argento che lungo un piano inclinato scivola. Destini incrociati. A Destini incrociati siamo all'inizio degli anni 50 e stiamo ripercorrendo l'avventura di una famiglia che ha anche una storia tutta italiana, quella di Bialetti. È il 1918, quando Alfonso Bialetti, appena rientrato dalla Francia dove ha imparato a lavorare l'alluminio, apre una piccola officina tutta sua a Crusinallo, la più grande frazione di Omegna, una bella cittadina sul lago d'Orta in Piemonte. 15 anni dopo, guardando sua moglie e le altre donne lavare i panni con un'antenata della moderna lavatrice, formata da un tubo centrale bucato nell'estremità superiore, ha l'illuminazione. Applica lo stesso processo meccanico al caffè e inventa la moca. Ma il vero artefice del successo del caffè fatto in casa è suo figlio, Renato Bialetti, il nostro primo protagonista. Baffi imponenti che gli coprono la bocca, momenti da compagnone alternati a momenti in cui esprime tutto il suo caratteraccio. Renato è un personaggio eccentrico e lungimirante, che fin da quando entra in azienda nel 1947 si rende conto che dopo la guerra bisogna reinventare tutto. E così incomincia a girare prima l'Italia e poi l'Europa in lungo e in largo, come un piazzista qualsiasi. Ma grazie al contatto umano fa centro. La produzione cresce a dismisura. Arrivano richieste da tutto il mondo. Renato si rimbocca le maniche e con lo spirito imprenditoriale e l'entusiasmo ereditato da suo padre, rivoluziona la fabbrica. Raccontano così le cronache locali del periodo. Renato Bialetti sta costruendo uno stabilimento avveniristico. Nastri trasportatori, catena di montaggio, macchine e utensili. È davanti alla fabbrica la mattina presto con gli operai e non se ne va finché non se n'è andato l'ultimo. A Omegna sono tutti curiosi, impazienti di vedere il risultato. Cosa sta facendo il Bialetti? È la domanda più sentita nei bar, mentre qualcuno abbozza tentativi sarcastici. Farà anche un'autopista? Sta facendo un ottovolante? Ma metterà anche una giostra in fabbrica? Renato, Billy come lo chiamano in tanti, sente tutto ma non dice niente. Parlerà solo quando i lavori saranno terminati. Quando qualcuno fa delle ipotesi sopra le righe, scuote la testa divertito, fiero del suo progetto di impianto circondato da grandi vetrate. Pensate per tenere sempre tutto sotto controllo, anche a distanza. Non è raro vederlo con in mano un grande binocolo pronto a criticare quello che secondo lui non viene fatto alla perfezione. Fine anni 50. Esplode il miracolo economico. Con il boom cambiano il linguaggio, i costumi, lo stile di vita degli italiani. Dopo 20 anni di sperimentazioni per lo più abbozzate, la televisione entra in tutte le case, così come gli elettrodomestici che facilitano i lavori quotidiani. Insieme a lavatrice e frigorifero per tutte le famiglie è arrivato il momento di comprare la prima automobile. 11 marzo 1955. Viene presentata al pubblico la Fiat 600. 2 anni più tardi, il 4 luglio 1957, è la volta della nuova 500. Sono le prime auto per tutti, nate per il mercato di massa in Italia. Gli italiani si lasciano alle spalle le difficoltà del dopoguerra e scoprono il benessere. Una strada a senso unico. Le mille bolle blu che volano, e Negli anni del boom economico aumenta il potere d'acquisto delle famiglie italiane, con conseguente aumento dei consumi. Le aziende storiche, impostate su logiche tradizionali, si ritrovano in un mondo diverso, dove per la prima volta diventa importante fare pubblicità. Renato Bialetti, abituato ad arrivare prima degli altri, ci ha già pensato. Per vendere più caffettiere non basta la qualità. Bisogna affascinare i potenziali clienti, fare in modo che si affezionino al proprio prodotto tanto da desiderare quello e quello soltanto. E così si rivolge alla Paul Film, che è stata fondata nel 1954 da uno dei più grandi esponenti del cinema d'animazione italiano. Si chiama Paolo, ma da tutti è conosciuto con il nome di Paul Campani. Paul Campani. Mi sono sempre considerato un commerciante, un realizzatore di disegni. Faccio un disegno e poi lo vendo. Sì, perché per me è un mestiere e continua ad esserlo. Invece le voglie, i desideri di fare cose diverse, cose impegnate, le tengo per quando terminerà il mestiere. Modena, cuore pulsante della Bassa Padana. Tra la via Emilia e la nebbia, il tempo scorre lento secondo la filosofia del buon vivere. Qualcuno in bicicletta, che di tanto in tanto stacca una mano dal manubrio per salutare un amico. Le osterie, dove non mancano mai il lambrusco e le carte. Una tolleranza che viene da lontano, da quando qui si fermavano i viandanti, i poveracci, i papi, che percorrevano l'Italia da nord a sud e da sud a nord. Modena è una città geniale, ricca di talento, fantasia e creatività in tutti i campi, dalla letteratura alla musica. E poi c'è il fumetto. Guido De Maria, Bonvi, Silver sono soltanto alcuni nomi, ma il capostipite della prospera scuola modenese è Paolo Campani, che viene alla luce in un gelido gennaio del 1923 nella sua casa in via Balugola. Da ragazzino Paolo ha due grandi passioni, Topolino e Flash Gordon. Ero un divoratore di fumetti. Avevo tutti gli albi di Topolino e di Flash Gordon. Ricordo ancora il primo numero, comprato appena uscito, nel 1934. Schivo e visionario, Paul, così si fa chiamare, passa le sue giornate con la matita in mano, finché alla fine degli anni 30, dopo aver mandato alcuni schizzi, viene notato da un giornale locale. Ed è così che cominciano ad arrivare le prime commissioni, da realizzare in modo del tutto artigianale. Paul disegna, suo fratello Ferdinando si occupa dell'inchiostrazione delle strisce, sua sorella Rosa si dedica alla scrittura dei balloon. Sono ore divertenti, spezzate di tanto in tanto dalla mamma che mette sul tavolo, non curandosi troppo delle briciole, una torta appena sfornata. Nel 1939 Paul ha soltanto 16 anni, ma debutta già sulle pagine degli albi dell'Intrepido, edito dalla casa editrice Universo. Tre anni dopo va in stazione, compra il biglietto per Milano e sale sul treno. Vuole partecipare alle selezioni per collaborare a La Rosa di Baghdad, celebre lungometraggio animato italiano prodotto e diretto da Anton Giulio Domeneghini. In un tempo lontano, sulla terra d'Oriente, in quella Baghdad fiorita che aveva mille minareti e mille giardini, viveva un popolo felice e laborioso. Regnava Oman III, il califfo più buono e più ingenuo che mai fosse esistito sulla terra. Il popolo all'inizio della nostra storia si preparava a una grande festa. Al volgere del terzo sole, la principessa Zeila, nipote d'erede di Oman, avrebbe scelto il suo sposo fra i principi delle tre città sul fiume. Sembrava che nessuna nube avrebbe mai offuscato l'azzurro di quel cielo sereno. Il talento del giovane modenese non è di quelli che si possono ignorare. Dopo La Rosa di Baghdad, per il quale viene preso e lavora con risultati che superano le aspettative, comincia la sua carriera di disegnatore. A una collaborazione per Asso di Picche, creato da Mario Faustinelli, Alberto Ongaro e Ugo Pratt, segue una felice stagione con la casa editrice argentina Abril, per la quale scrive 8 serie, fino alla metà degli anni 50. Fino a che non decide che è arrivato il momento di mettersi in proprio. Una scelta lungimirante, visto che in TV sta per cominciare lo storico contenitore pubblicitario dopo il quale, così recita il claim, i bambini devono andare a nanna. È Carosello. ...1954... Il sogno di Campani prende vita con la Paul Film. Gli studios, da lui interamente pensati e gestiti, sono un vero e proprio teatro di posa, costituito da un fabbricato vicino al settore animazione nella periferia della città. A partire dall'inizio di Carosello, nel 1957, qui cominceranno a essere realizzati i cosiddetti codini dal vivo dei diversi caroselli animati, oppure quei caroselli fatti proprio dagli attori. Sono in molti i grandi personaggi che passeranno dalla Pol Film: Giorgio Gaber, Antonella Steni, Elio Pandolfi, Peppino Di Capri. E ancora Francesco Mulè, Isabella Biagini, Maurizio Arena, Macario, Ernesto Calindri e perfino Louis Armstrong. Ne parla in una vecchia intervista Guido De Maria, eclettico autore, disegnatore e pubblicitario, noto tra le altre cose per il programma Gulp. A Modena esisteva uno straordinario gruppo di animazione capitanato da Paul Campani, un grandissimo disegnatore, un talento straordinario, che diede vita a innumerevoli personaggi e che tra l'altro fu aiutato in questo da Massimino Garnier, che era un autore, un creativo anche quello di grande talento, e col quale realizzò Toto e Tata, Angelino, Svanitella, Riccardone. Quelli citati da De Maria sono alcuni degli storici personaggi partoriti dalla mirabolante fantasia e dalla penna di Paul Campani. Ma ne manca uno, un personaggio che assomiglia incredibilmente a Renato Bialetti. Sembra facile, sì. Ah, ci siete anche voi? Buonasera. Dicevo, sembra facile fare da soli, perché rivolgersi agli specialisti? Meglio far da soli, e poi cosa ci vuole? Un po' d'attenzione, sì, un pochettino di pazienza e un cincinin di pratica, e poi è più divertente, sì. Già. Non dimenticarti questo consiglio. Già. Segui le felici ancora sarai. Prendi una matita e disegna un lago azzurro. Buttaci i pensieri, tutti i dispiaceri e sorridi al mondo intero. Destini incrociati. A Destini Incrociati siamo nel 1957 e una ancora giovane televisione italiana ha appena cominciato a trasmettere il più fortunato contenitore commerciale della sua storia, Carosello. Paul Campani è un disegnatore che dopo una vasta esperienza nei fumetti, sia in Italia che in Argentina, ha deciso di mettersi in proprio aprendo la Pol Film, una pionieristica casa di produzione di animazione che grazie a Carosello lavora moltissimo. Un giorno la sua segretaria riceve una chiamata e gliela inoltra. E Renato Bialetti vuole parlare con lui. Sapevo già che cosa mi avrebbe chiesto. Un uomo come lui non si sarebbe mai lasciato sfuggire l'occasione di Carosello. Era uno che girava in lungo e in largo pur di far conoscere i suoi prodotti. Conosceva l'importanza della pubblicità. Se Alfonso Bialetti, suo padre, ha inventato la moca per fare il caffè in casa, Renato, grande uomo di marketing, vuole fare di tutto per portarcela davvero, la moca, in tutte le case. Eccentrico, lunghi baffi, camicia svolazzante. Nel pieno del boom economico si diverte da morire a incuriosire i clienti. Una volta, nel bel mezzo di una fiera campionaria a Milano, fa costruire una caffettiera alta una ventina di metri e tappezza di manifesti i viali che portano alla fiera. Lo prendono un po' per matto, perché nessuno ancora fa operazioni commerciali così azzardate, come quando ha trasformato la piccola officina di Omegna, Lago d'Orta, nel più moderno stabilimento d'Europa. O come quando, all'Hotel de Paris di Monte Carlo, ha chiesto a un assis di fingere di conoscerlo perché a inizio carriera gli sarebbe stato utile per vendere caffettiere. In fondo anche un assis aveva iniziato vendendo sigarette per la strada, quindi, aveva pensato Renato, avrebbe capito. Paul Campani non si sbaglia. Renato Bialetti vuole un carosello per la moca e si rivolge a lui perché sa che rappresenta l'eccellenza. Paul, che non molla mai la matita neanche quando sta facendo altro, indugia per un attimo sul volto di Renato, che gli sta dando indicazioni confuse. Sorride e fa uno schizzo. Niente di dettagliato, solo un naso piuttosto grosso e buffo e due baffoni. Ad aiutarlo, sempre con i consigli giusti, c'è Massimino Garnier, uno dei collaboratori più importanti. Renato sbircia il foglio. È la prima immagine dell'omino coi baffi. Un'automobile passa, una mosca vola bassa, mi ronza, gira, ma sbaglio la mira. Vorrei cercare qualche cosa da fare fuori e camminare senza orgoglio, darsi a rubacuori. Ma io come Giuda so pendermi nuda, la strada conosco e L'omino coi baffi disegnato da Paul Campani fa la sua comparsa a Carosello il 6 gennaio 1958 e da subito la sua immagine diventa un tutt'uno col prodotto che reclamizza, la celebre Moka Bialetti. La International Research Services, dati alla mano, analizza così l'impatto. Possiamo affermare che lo sketch Bialetti è contenutisticamente giudicato divertente dalla maggioranza dei telespettatori, 76%, e dato importante, la maggioranza dei telespettatori che hanno visto il Carosello associano detto sketch alla società Bialetti o al nome Moka Express, 61%, e lo associano pure al prodotto reclamizzato, caffettiera, 76%. Il baffuto signore che tanto ricorda Renato Bialetti, da presentatore perfetto e con la voce di Raffaele Pisu, si rivolge direttamente ai telespettatori chiamati a indovinare le azioni che un secondo personaggio, suo simile, sta compiendo. L'idea arriva sull'onda del successo della trasmissione di Mike Bongiorno Telematch, in cui, seguendo i concorrenti, anche i telespettatori vogliono partecipare. Nel corso di ogni episodio, accompagnato dalla musica di Emilio Bassi, l'omino Bialetti dà vita a un vero e proprio spettacolo attraverso una successione di domande e risposte, da cui il titolo della serie Telequiz. Celeberrimo il tormentone, sì sì sì, sembra facile, che nel codino finale diventa il racconto perfetto della Moka. Sembra facile farsi un buon caffè. Sembra facile costruire la trappola per topi, sembra facile, anche farsi altre cose sembra facile. Oh sì sì, sembra facile anche farsi un buon caffè, ma non basta avere del buon caffè ben macinato, dell'acqua e il fuoco, no no no, ci vuole anche esperienza, cura e una buona caffettiera, la caffettiera Moka Express. Qualche migliaio di sketch, oltre 200 sigle e una lunga serie di corti pubblicitari per il cinema. Con Carosello la fama della Paul Film cresce in modo impressionante, tanto che Campani un giorno viene chiamato in America niente meno che da Walt Disney. Hanno notato i suoi lavori e gli vogliono offrire un incarico prestigioso. Campani, senza pensarci troppo, declina gentilmente l'offerta che per chiunque sarebbe stata solo un sogno, perché non vuole lasciare la sua Modena. Non sente affatto di aver perso l'occasione della sua vita, perché tutto ciò che vuole è lì, lungo la via Emilia, a portata di mano. Intanto il mondo della pubblicità cambia, lievitano i costi di produzione e il lavoro alla Paul Film, di dimensioni comunque artigianali, scarseggia. È il 77, quando Carosello chiude per sempre. Alla fine dello stesso anno chiude anche la Paul Film. Campani, l'uomo che ha dato vita ad alcuni dei personaggi che hanno segnato la storia d'Italia, si spegne senza rimpianti nel 1991, naturalmente nella sua Modena. Grazie al suo genio, unito all'intuito imprenditoriale di Renato, la Bialetti, nel corso degli anni, vende qualcosa come 300 milioni di caffettiere. E mentre l'omino coi baffi è stampato su tutte le moche e l'aroma di caffè accompagna le nostre giornate, di questa incredibile avventura viene da pensare... Sì, sì, sì, sembra facile. Settemila caffè li ho già presi perché sono stanco di stare al volante, vorrei arrivare entro sera da te.